9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 2 di novembre. Oggi vi risparmio le pillole, sapete perché? Perché francamente, non solo per rispetto alla commemorazione dei defunti, e quindi mi sembrerebbe un po' anomalo far sparare un po' coi toni un po' esasperati come faccio sempre, ma soprattutto perché non voglio dirvi davvero cosa penso delle due pillole che vi avrei dedicato. Cioè, la prima è quella di Berlusconi, che cosa fa Berlusconi? Cambia idea. Anche ieri ha cambiato idea Berlusconi, ha detto che non la fa più la campagna contro Monti. No, non la fa più. Era un altro quello che aveva detto che Monti stava sbagliando tutto. Non era lui, no. Lui la fa contro la Germania questa volta, da cui già si era preso lo schiaffo. Non vi voglio dire cosa penso. Arrivateci da soli cosa penso rispetto a uno che, a seconda di quale piede utilizzi per scendere dal letto, dice questo. Né vi voglio dire la seconda pillola di che cosa penso di questa nuova sorpresa di Grillo, che con Di Pietro nella polvere, che cosa fa? Lo arruola, lo prende, non lo so, lo candida al Quirinale, lo candida. Ma non ve lo voglio dire che cosa penso. Quindi non ve lo voglio dire, perché oggi, giorno dei defunti, ma soprattutto il giorno in cui vergognosamente moltissimi di voi sono in vacanza, perché la città era deserta ieri, noi ci dedichiamo a un tema che ci fa un po' respirare rispetto alla politica italiana, derelitta e priva di veri punti di ancoraggio. Noi ci dedichiamo alla scelta che negli Stati Uniti, nella notte tra il 6 e il 7, gli americani faranno del nuovo presidente, quindi una scelta che avrà un impatto, come ovvio, mondiale, non solo per gli Stati Uniti, ma per l'economia mondiale, per il fatto poi che il presidente uscente Barack Obama arriva a questo appuntamento, diciamo, un po' più in difficoltà, molto più in difficoltà rispetto a quanto un bel po' di mesi fa sembrasse. Mitt Romney l'aveva praticamente quasi superato nei sondaggi. E novità, ieri Mitt Romney che cosa ha detto? L'ultimo pugno finale a Barack Obama: guardate che con Barack Obama l'America, cari americani, diventa come l'Italia, vi rendete conto? Cioè, siamo oramai nella polvere, ancora una volta, siamo usati nella campagna elettorale americana per dire: cari americani, state attenti, perché con questo qua l'America diventa una roba che poi bisogna aspettare Grillo per tirare su. Pensate qual è il livello dell'Italia nel mondo. Ricordo a tutti che le regole per votare sono che il totale dei voti elettorali, ognuno stato ha dei voti elettorali in proporzione alla popolazione, sono 539, vince chi ne porta a casa 270, ma Obama ne ha ancora soli garantiti nei sondaggi 243, 206 ne ha Mitt Romney, 89 sono pendenti. Ci sono importanti stati con molti voti, la Florida che ha 29 voti in cui Romney è in vantaggio, ma gli altri grandi stati pendenti sono quelli in cui in realtà è in vantaggio Obama, anche se un'incollatura come la Virginia che ha 13 voti, North Carolina che ha 15 voti, l'Ohio che ha 18 voti. Si vedrà all'ultimo secondo. Intanto chiediamo un pochino ai nostri ospiti, che ora vado a presentarvi, come stanno le elezioni. Allora, il primo ospite è il professor Luigi Zingales, che insegna finanza a Chicago Booth, all'Università di Chicago, ed è anche come indipendente membro del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia. Buongiorno e grazie, professor Zingales. Buongiorno. Ed è con noi Cristian Rocca, lo conoscete, è inviato del Sole 24 Ore, è direttore di il mensile del Sole 24 Ore, che proprio nel numero ultimo uscito aveva uno speciale per le elezioni americane, che Cristian segue da quando stava in altre testate, è un grande appassionato, un grande conoscitore di Stati Uniti. Buongiorno e grazie Cristian. Buongiorno. Senti Cristian, ci dici, ci confermi che i dati che ho tratto dal New York Times di ieri in realtà sono più o meno quelli, e quindi questa è la situazione, ed è una situazione che vista di là vede Barack Obama vicino a vincere secondo te oppure no? La situazione è quella che hai descritto tu, ci sono ovviamente anche altri sondaggi più favorevoli a Romney, però in generale la situazione è esattamente questa. Obama è stato in vantaggio durante tutto l'ultimo anno in modo deciso, chiaro ed evidente in tutti i sondaggi. Dopo il primo dibattito tra i due candidati a Denver invece c'è stata un'inversione di tendenza, Romney ha recuperato molti punti, in alcuni casi secondo alcuni sondaggi ha superato il presidente in carica, però la partita si gioca in sei dei battleground states, degli stati in bilico, quelli di cui parlavi tu, e all'interno di questi stati la situazione è leggermente più favorevole a Obama. Romney è riuscito anche lì a ridurre il margine di svantaggio, secondo alcuni sondaggi è avanti in Florida, è avanti in Virginia, è avanti in North Carolina. Ma per vincere, per diventare presidente, deve praticamente vincere in quasi tutti questi stati maggiori e soprattutto in Ohio invece è in difficoltà, e quindi per rispondere alla tua domanda, sì, secondo me Obama resta in vantaggio per essere rieletto. Anche se naturalmente non sarà una vittoria landslide, non è una di quelle cose per cui si porta a casa i 365 con cui vinse la volta scorsa. Allora, Christian ci accompagna per tutta la trasmissione, siccome il professor Zingales alla fine del primo blocco ci deve lasciare, iniziamo a esaminare alcune delle questioni fondamentali di come si è comportato a suo giudizio il presidente Obama. Io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che Luigi Zingales ha in vendita nelle librerie per Rizzoli in questa settimana in Italia un libro che è appena uscito, si chiama Manifesto Capitalista ed è la traduzione italiana di un libro che in realtà è stato concepito e scritto da professor Zingales per il pubblico americano, perché la tesi di fondo è state attenti, cari amici americani, perché avete preso una brutta piega, correte il rischio di diventare un chronic capitalism, un capitalismo di relazioni, un capitalismo corrotto secondo il modello dei peggiori paesi europei, anzi secondo il modello dell'Italia. Da questo punto di vista iniziamo a vedere un pochino, durante la presidenza, la riforma delle regole finanziarie americane, la legge della Dodd-Frank, quella con cui si è tentato di dare risposta a un modello di intermediazione finanziaria ad alta leva e a bassa congruità patrimoniale. Nel suo giudizio lei è molto critico, però può dire agli ascoltatori cosa si aspetta da questa riforma? È stata una buona risposta? È stata una cattiva risposta? I democratici sono come i repubblicani e peggio dei repubblicani? Come stanno le cose? Ma secondo me è stata una cattiva risposta. In qualche misura i democratici sono peggio dei repubblicani, perché i repubblicani probabilmente avrebbero fatto poco o nulla. I democratici hanno fatto tante regole, ma poco efficaci, che è addirittura peggio di non farle. E l'esempio più lampante, diciamo, è questa regola che va sotto il nome di Volcker Rule, in cui si cerca di risolvere il problema dell'eccessivo rischio che le banche assumono e poi scaricano sullo Stato, sui depositanti, ma quindi alla fine sullo Stato, e lo si fa facendo una distinzione tra il trading che viene fatto a fini personali, proprietary trading, quindi fatto dalla società per la società, invece il trading fatto per i clienti. Però il trading fatto per i clienti non è necessariamente un trading a cui un cliente ha mandato un ordine, è qualsiasi trading che abbia come finalità ultima di soddisfare nel futuro il bisogno di un cliente. Quindi la differenza sta nell'intenzione di colui che fa prende la decisione di comprare o vendere. Come voi ben capite, qualsiasi regola che si basi sulle intenzioni è una regola estremamente difficile da implementare. Lei nel libro dedica una lunga analisi a quello che poi è diventato uno dei temi dominanti per capire come in realtà la riforma delle regole, io sono d'accordo con lei, non è stata né condivisa e globale, e quella americana è molto, secondo me, deludente. Tutti quanti, anche quelli che non sono esperti del ramo, hanno capito che c'è questa questione del too big to fail, le banche sistemiche troppo grandi di fronte alle quali si è messo mano, naturalmente non solo ai dollari, ai denari dei contribuenti, ma se uno va a vedere a distanza di anni dall'esplosione della crisi, poi alla fine sì, è cambiato qualche nome, è cambiata qualche forma giuridica, nel senso che sono diventate tutte banche commerciali, però in realtà se vai a vedere sul totale degli attivi nel mercato americano, le prime cinque hanno più attivi di quanto non fosse nell'estate 2007 e poi ai tempi di Lehman Brothers, quindi c'è una concentrazione alla quale effettivamente non si è data una risposta di rischio sistemico, tranne che far capire al mondo che l'America naturalmente può intervenire, e a quel punto interviene. E lei propone, in un capitolo che è proprio dedicato a quello, contenere i rischi a Wall Street nel suo libro, propone un sistema in cui il regolatore, a partire dagli stress test, a andare a verificare quali sono le garanzie patrimoniali grande banca per grande banca, dovrebbe essere molto attivo. Ma non è un po' una tradizione che non c'è rispetto alla tradizione dei regolatori finanziari e bancari degli Stati Uniti? Il problema è che i regolatori hanno paura di intervenire. Cioè, l'esempio più bello, secondo me, è Washington Mutual, una delle grosse banche americane che è fallita nel 2008, e gli indicatori di mercato, che questa banca era in crisi, c'erano da mesi. Poi alla fine il regolatore è intervenuto a settembre 2008, secondo me molto in ritardo. Ciò nonostante, gli azionisti hanno fatto causa al regolatore perché secondo loro sarebbe intervenuto troppo presto. E negli Stati Uniti si dice che per un tacchino il Thanksgiving o il Natale arriva sempre troppo presto. Per un azionista che ha un'opzione che vuole mantenere in vita e quindi vuole che il regolatore non intervenga mai, e questi tendono ad avere un potere politico sul regolatore molto più forte del invece i taxpayers, i contribuenti, che sono preoccupati di questo eccesso di rischio e che quindi dovrebbero spingere il regolatore a intervenire quando una banca è ai limiti della bancarotta. Allora, neanche nella commissione, una commissione politica in realtà più che di esperti, che fu incaricata poi dal congresso, dall'autorità politica americana, di fare chiarezza su quello che era successo e che era poi sfociato in Lehman Brothers, che è sfociato in una moltiplicazione del balance sheet della Fed, cioè di ciò che la Fed compra sui mercati per stabilizzare altrimenti l'evento che i prezzi di asset che diventano illiquidi, cioè non sono più liquidabili, facciano piombare verso il basso in generale i prezzi di questi asset, peggiorando la crisi. Neanche in quella commissione l'America ha dato una grande prova di sé negli anni della presidenza Obama. Non è colpa del presidente, perché lei ricorda, si è trasformata quella commissione in una specie di puro arengo di lotta politica, un po' come l'Italia ai tempi di Berlusconi sì, Berlusconi no. Da questo punto di vista, quindi, insomma, non è cambiato molto, vogliamo ammetterlo, professor Zingales? No, assolutamente, secondo me è anche responsabilità di Obama, cioè avrebbe dovuto nominare una commissione veramente di esperti, non di politici. Quando uno degli shuttle venne giù, ci fu una commissione molto simile e fu nominato un premio Nobel della fisica, il quale poi è quello famoso che dimostrò che lo shuttle esplose in aria a causa di una guarnizione difettosa che era stata comprata per risparmiare soldi e che non teneva la temperatura bassa che c'era stata in quella notte prima della partenza dello shuttle. Quindi se uno nomina una commissione di persone indipendenti e competenti, può arrivare alla soluzione del problema. Se uno invece nomina dei politici che hanno lo scopo semplicemente di giustificare delle regole che vengono fatte prima della fine della commissione, quindi prima che la commissione decida quali sono le cause, allora siamo veramente ai livelli italiani. Posso chiedere un giudizio se lei fosse, se lei dovesse, adesso non voglio chiedere per chi voterebbe dei due candidati, ma mi interessa capire una cosa. Lei tocca molto nel suo libro i temi dell'uguaglianza, i temi della trasparenza, che sono la vera risposta preventiva per impedire le frodi sia nella finanza pubblica che negli intrecci della finanza privata. Se dovesse dire ai nostri ascoltatori l'importanza che ha il tema del fisco tra i due candidati e il peso che avverte nel dibattito di questi ultimi mesi, queste ultime settimane, per orientare l'opinione pubblica americana, sto dicendo del fisco, non solo degli occupati e della ripresa economica, che chiaramente è deludente, è il vero tallone di Achille, tutti lo hanno riconosciuto di Obama, ma questa storia del fisco, che in Italia viene sempre rappresentata dicendo anche in America hanno capito che le tasse basse sono un errore, ci vuole redistribuzione e così via, con gli occhi non di un europeo ma di un italiano che sta lì, che cosa direbbe ai nostri ascoltatori? Beh, innanzitutto direi che io sono stato profondamente deluso da Barack Obama. Quando ci fu l'elezione del 2008 aveva suscitato anche il mio entusiasmo, anche perché McCain era simpatico ma non dava l'impressione di avere la competenza sia per governare un paese, soprattutto in un momento così difficile. Secondo me Barack Obama ha commesso molti errori nella gestione politica e ha dimostrato un'incompetenza politica notevole, cioè una persona che non aveva mai gestito nulla in vita sua. In Italia la gente dice ma Renzi non ha esperienza, Renzi ha molta più esperienza di quando quella che aveva Barack Obama quando diventò presidente, perché non aveva mai gestito neanche un consiglio di quartiere. Questa è una bella dichiarazione, far osservare ai nostri ascoltatori italiani che Renzi è un volpone della politica rispetto a Barack 4 anni fa. Però questo si dimostrò nella sua incompetenza della gestione. Ora, sulla questione delle tasse, io quello che vorrei ricordare agli spettatori italiani, innanzitutto negli Stati Uniti noi paghiamo molte tasse sulla casa, cioè oggi la gente protesta per l'IMU, io pago una tassa sulla mia casa che è quasi uguale all'1% del valore di mercato della casa, quindi ho una imposta molto pesante sulla proprietà. Ho un'imposta molto pesante sui redditi da capitale, cioè se io sugli interessi dei titoli pago la tassa marginale che nel mio caso è 35%, quindi delle cose molto pesanti da quel punto di vista. E sul resto del reddito, la tassa del reddito invece? Sul reddito lo scaglione, diciamo, del 35% parte molto molto più elevato che in Italia, quindi la grossa differenza secondo me tra gli Stati Uniti e l'Italia è quanto ceto medio alto viene tassato, perché in Italia viene spolpato, negli Stati Uniti no, e poi nel ceto, cioè i super ricchi pagano relativamente poco, però voglio dire i super ricchi ci sono pochi e non è che facciano un'enorme differenza. Quello che secondo me fa la differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia è la differenza tra, cioè il ceto medio in Italia paga pochissimo se ha reddito da capitale e paga moltissimo se ha reddito da lavoro. Negli Stati Uniti è esattamente il contrario. Anche perché io voglio ricordare che gli Stati Uniti, giustamente da molti criticati come la terra in cui l'1% ha una percentuale troppo elevata di roba eccetera, però quell'1% grazie a queste aliquote che come media e mediana sono molto più basse di quelle nostre, quell'1% lì che diciamo c'ha $1,500,000 a cranio come media, naturalmente c'è chi ne ha molti di più e chi ne ha di meno, pochissimi ne hanno diciamo $450,000-$500,000 all'anno, che non è un granché per vivere bene a Manhattan purtroppo, mentre si campa meglio altrove. Ma detto tutto questo, quell'1% dei contribuenti americani con le aliquote medie e mediane più basse delle nostre fa quasi il 40%, se non ricordo male, del totale del getto dell'imposta federale. Chiedo ancora questo a Zingale: secondo lei, da quello che ha capito, questo tema che c'è sul cosiddetto fiscal cliff, cioè il fatto che col nuovo congresso vanno in scadenza gli abbattamenti fiscali che il congresso aveva autorizzato solo a tempo al presidente precedente, cioè a Bush figlio, e che adesso l'entrante si troverà con un enorme problema, perché la questione è che o c'è un enorme aggravio di tasse oppure parte sì un programma automatico di riduzione della spesa, ma comunque l'impatto su un'economia che resta abbastanza asfittica rispetto alla media americana, noi ce lo sogneremmo, ma resta asfittica per come all'America servirebbe per assorbire il totale di coloro che non partecipano al mercato del lavoro rispetto a prima della crisi, è un grande tema. Lei come lo vede questo tema del fiscal cliff, Zingales? Beh, innanzitutto il fiscal cliff non è solo la reintroduzione delle aliquote più elevate, diciamo pre-Bush, è anche tagli automatici di spesa decisi l'anno scorso in agosto per come concambio, diciamo, dell'aumento del tetto del debito federale. Quindi in quell'occasione i repubblicani e i democratici si misero d'accordo dicendo o noi facciamo dei tagli di spesa prima oppure ci sono dei tagli automatici che colpiscono e è stato fatto in maniera abbastanza intelligente, perché colpiscono la spesa che ciascuna constituency desidera di più, cioè per i repubblicani tagliano molto la spesa militare, mentre per i democratici tagliano molto, adesso non mi ricordo, ma altre forme di entitlement a cui loro sono molto legati. Quindi sicuramente c'è una riduzione di spesa, aumento delle tasse automatico, che secondo me ha un forte effetto di focalizzare il nuovo presidente, chiunque esso sia, in un piano di riduzione del deficit che negli Stati Uniti è assolutamente necessario. Cioè gli Stati Uniti hanno un deficit dell'8% del, del PIL e un debito che è crescente, che riescono a finanziare ancora molto bene sul mercato, ma l'Italia insegna che si riesce a finanziare bene fino al giorno in cui si scopre che uno non riesce a finanziarlo più. Quindi secondo me il problema di risolvere questo deficit è un problema vero, che va fatto forse in maniera graduale, però il rischio di queste cose graduali è che poi non si arrivi mai al dunque. Quindi secondo me è molto importante che questo fiscal cliff esista per spingere il Presidente ad agire. Ha una politica insomma, più rigorosa. Per quanto agli effetti recessivi. Ha una politica più rigorosa. Sui effetti recessivi? Gli effetti recessivi secondo me ci possono essere, ma non sono così drammatici. Il mio problema principale è l'incertezza che questo genera, cioè l'assurdità di questi tagli temporanei è che sono praticamente una forma di racket che i politici hanno nei confronti dell'economia, perché ogni due anni chiedono soldi per prevenire l'aumento delle tasse. Quindi dal punto di vista di raccogliere i fondi per la campagna elettorale succede è un effetto ottimo, è ovvio. Dal punto di vista dell'economia non troppo, invece è un disastro, perché c'è incertezza. È chiaro, perché cambia le aspettative, non le rende certe. È un po' come abbiamo fatto con l'Italia da Tremonti e col governo Monti, per cui fissando degli aumenti automatici dell'IVA ecco che bisogna poi fare le manovre. Quindi è diventato uno strumento a tempo, per così dire. Allora io intanto saluto e ringrazio per il tempo che ci ha dato il professor Zingale, se lo restituisco ai suoi studenti. Ricordo a tutti voi che siete in ascolto che il presidente Barack Obama ha un record negativo poco commendevole, perché lui ha trovato, quando ha preso il mandato, un totale del debito pubblico, lo stock di debito pubblico americano, che in oltre 200 anni era più o meno 10.000 miliardi di dollari, e lo lascia a 15.000 miliardi di dollari, cioè lui lo ha aumentato del 50% in 4 anni. Da questo punto di vista è il presidente americano più indebitato come debito aggiuntivo di tutta la storia, possiamo dire, degli Stati Uniti d'America. E a questo punto chiedo a Christian Rocca, da questo punto di vista, la politica estera, è vero che anche se Barack Obama ha portato all'eliminazione con un controverso raid e un film che deve uscire proprio sull'eliminazione di Osama Bin Laden, ma mi pare che la politica estera non sia proprio uno dei temi di questa campagna, o no? La politica estera è stata totalmente assente. Io sono stato anche alle due convention dei due candidati, a Tampa per i repubblicani e a Charlotte per i democratici, e praticamente salvo un intervento di Condoleezza Rice per Romney e pochissimo altro, diciamo, per i democratici, e molto, diciamo, sottolineando molto l'aspetto dell'uccisione di Osama Bin Laden, non se ne è parlato. A un certo punto però è successo qualcosa, è successo l'attacco al consolato americano di Bengasi, dove è stato ucciso l'ambasciatore americano in Libia e due o tre suoi uomini della scorta. E questa cosa un po' ha fatto ritornare questi temi, perché ovviamente i repubblicani hanno criticato l'operato di Obama e lo accusano di non essere intervenuto, malgrado, diciamo, da Bengasi la richiesta fosse stata come dire, chiara e certa di essere in pericolo, e invece gli americani non, insomma, la CIA e le militari, che comunque non sono molto distanti dalla Libia, essendo visto che abbiamo a Sigonella anche una base americana, non sono intervenuti. Su questo i repubblicani, in particolare i media, diciamo, vicini ai conservatori come Fox News, stanno molto tentando di aprire una breccia. Poi in realtà è stato messo tutto a tacere, perché c'è stato qui l'uragano Sandy, che ha, come dire, ulteriormente cambiato la dinamica della campagna elettorale. Senta, ma è giusto chi dall'Italia ha scritto in questi mesi, dopo la novità che era stato scegliere Paul Ryan come vicepresidente, che in realtà Paul Ryan non ha giovato molto, o non così come sembrava all'inizio, alla raccolta di voti decisivi aggiuntivi per la candidatura di Mitt Romney? È così, vedendolo dal dibattito americano? Insomma, diciamo, i dati negano questa cosa, perché Romney era molto indietro nei sondaggi, secondo me, e adesso sì. Diciamo, è vicino. Io non so se il motivo è la scelta di Paul Ryan. Certo, diciamo, l'aver preso Ryan come candidato vicepresidente, ha galvanizzato e mobilitato diciamo la destra americana, i cosiddetti Tea Party, ma non c'è bisogno di non solo i Tea Party, insomma comunque Romney veniva visto e viene ancora visto dal Partito Repubblicano come un moderato pragmatico dell'ex governatore del Massachusetts, non esattamente diciamo, il luogo dove i repubblicani prendono la gran parte dei voti. La scelta di Paul Ryan, un giovane diciamo molto attivo soprattutto su questi temi del fiscali, di bilancio eccetera, ha sicuramente mobilitato il partito intorno a Romney. È vero però che non sembra sia riuscito a incidere molto sulla, cioè Romney era uno che aveva impostato tutta la campagna elettorale sul referendum anti-Obama senza, come dire, dare specifiche, senza dare dettagli su che cosa avrebbe voluto fare da presidente. Si pensava che con la scelta di Ryan, che invece è un uomo di numeri, un uomo di proposte anche radicali, anche che a volte non piacciono, potesse essere riempito più di contenuti questo referendum anti-Obama. In parte ci è riuscito, in parte no. Il risultato è che comunque Romney è in recupero. Allora, ci ha raggiunto anche il professor Sandro Brusco, che insegna economia a Stony Brook, quindi all'Università Statale di New York. Buongiorno, professor Brusco. Buongiorno. È tornata l'energia elettrica, perché lei è stato uno di quelli colpiti per più giorni dall'effetto di... In università sì, a casa no. A casa no? A casa no. Ah, incredibile, però questa sembra quasi una cosa italiana, per così dire. Perché ormai... Senta, le posso chiedere? Che ti devo dire? No. In realtà avevano detto, anche prima del terremoto, che potevano volerci tra 7-10 giorni e... Mi sembra che non abbiano sbagliato da questo punto di vista. E vabbè, insomma, freezer vuoto, perché è chiaro che ci deteriorano i cibi. Detto questo, dal suo punto di vista, che sta lì da anni, segna lì da anni, dovesse darci un'impressione qua ai nostri ascoltatori italiani, il tema invece dell'economia reale americana e dell'impatto che ha avuto le tante politiche non ortodosse che sotto Obama abbiamo visto da parte della Fed, tre quantitative easing, un tasso di interesse praticato che in realtà è sotto zero, eppure l'economia resta il punto debole in termini di mercato del lavoro, malgrado i soldi nell'auto e tutto questo. Allora, come diavolo si spiega questa cosa dal suo punto di vista? Cioè, i due candidati che differenza possono fare secondo lei? Non sono sicuro che possono fare una grande differenza. Allora, la prima cosa da osservare è che il presidente non è l'unico gestore della politica economica negli Stati Uniti. Ovviamente le proposte devono passare per la Camera dei Deputati e per il Senato, e dal 2010 la maggioranza della Camera dei Deputati è repubblicana, quindi da questo punto di vista è stata più una cogestione della crisi che una attuazione unilaterale di proposte democratiche e repubblicane. Faccio un inciso solo per ricordare che lei ha toccato un punto che avevo dimenticato, perché uno degli altri punti, oltre naturalmente al presidente, che è in ballo è esattamente la maggioranza a Camera e Senato, perché ai repubblicani, Christian, correggimi se sbaglio, mancano quattro seggi per riacchiappare il Senato. Quattro, Christian? Quattro per pareggiare eventualmente. Esatto, per pareggiare. Mentre ai democratici, per riprendere eventualmente il controllo della Camera dei Rappresentanti, quanti dovrebbero farne? 24, 25 deputati dovrebbero guadagnare, vero? I democratici. Nel numero di io non lo ricordo, comunque sia intorno a superiore ai 20 sicuramente. Sì, ok. Allora, abbiamo interrotto Brusco perché questa è una partita fondamentale, perché capite che se il congresso è disallineato rispetto al presidente, quello che vi diceva Brusco, bisogna ricontrattare tutto ovviamente. Comunque, da questo punto di vista, secondo te i due candidati sull'economia reale che impatto possono avere, vero? Non molto, temo. Il punto è che la mia impressione è che in questi anni nessuno sapesse bene che cosa fare. Anche la Fed è intervenuta con questi programmi un po' a tentoni, perché le cose tradizionali che sapeva fare, che erano quelle di ridurre i tassi di interesse, le hanno fatte alla massima potenza, hanno parlato di tassi di interesse a breve a zero, e lo stesso la cosa non sembra aver avuto effetti miracolosi. Adesso quello che stanno facendo da un po' è il tentativo di influenzare le aspettative di più lungo periodo in modo da generare aspettative di inflazione dai due e le aspettative sui tassi di interesse reali. Ha funzionato o non ha funzionato? Questo gli economisti discuteranno per anni. La verità è che se ha funzionato o non ha funzionato dipende da quello che uno si aspettava in alternativa. Se uno era molto pessimista su quello che poteva succedere, la cosa ha funzionato, altrimenti si può dire che la cosa non ha funzionato. La verità è che a me non sembra che nessuno dei due deputati, dei due candidati al momento, abbia queste grandi idee su come risollevare l'economia. L'economia non va così male, sta crescendo al ritmo del 2%, il vero problema dell'economia è che non ha recuperato la caduta che c'è stata durante la crisi, ossia è ritornata a crescere a un tasso abbastanza normale, ma sostanzialmente perdendo quel biennio 2008-2009 che fu di calo. Che detto così non è tanto bello, ma è sicuramente meglio di quello che è successo in Italia, dove abbiamo continuato a calare. Naturalmente, al netto del fatto però che sì, l'economia va così bene, però ne siamo reduci da 5 anni in cui in 4 il deficit è stato double digit, cioè a doppia cifra, superiore al 10%, fino ad arrivare a punte del 12% di PIL l'anno. Quest'anno riesce a stare a stento sotto l'8. È chiaro che l'America se lo può permettere perché ha il dollaro, per così dire, e malgrado la sua esplosione di debito pubblico. È chiaro che se dovessimo pensare di fare cose simili in Europa, come molti chiedono, molti rimprovano la BCE di non fare come la Fed, beh, qua staremo a pezzi però. Probabilmente saremo direttamente all'inferno, a pezzi. I tassi di interesse decennali americani sono a livelli storicamente molto bassi. Che in Italia sì, o in Europa, nei paesi della periferia europea, dove è quello che conta, perché poi alla fine i tassi di interesse sono bassi anche in Germania, ma nei paesi della periferia europea dove c'è un evidente timore da parte degli investitori della capacità degli stati di ripagare il debito, questa è una strategia che non è assolutamente praticabile. Che funziona o che non funzioni, non è che qui sia una questione se si possa o meno fare il deficit spending, questo è un dibattito che gli americani si possono permettere il lusso di fare, noi non ci possiamo permettere di fare, molto semplicemente. Allora, aspetti un secondo perché torno da Christian, poi le voglio chiedere una cosa che riguarda la partecipazione degli studenti e dei giovani a questa tornata presidenziale, da come la vede lei insegnando. Christian, che cosa può cambiare invece per l'Europa e per un paese veramente ormai periferico negli interessi americani come l'Italia, con i due presidenti, secondo te? Diciamo, il conventional wisdom è che con un candidato repubblicano l'Europa ne avrebbe da perdere, perché ha fatto Romney, ha fatto una campagna elettorale sostenendo che l'America non deve, Obama ha portato l'America sul corso dell'Europa, ha trasformato l'America in qualcosa di più vicino all'Europa rispetto invece alla sua tradizione e alla sua storia. E quindi sembrerebbe un candidato meno filo europeo rispetto agli ultimi. La realtà non è proprio così, perché Obama è stato probabilmente il presidente meno europeo dal dopoguerra in poi. Si è sempre definito un presidente del Pacifico, il Pacific Candidate President, sempre detto, un po' per la sua storia, perché è nato nelle Hawaii, per tutto questo, insomma, ha rimesso l'America al centro dei due mondi, da una parte proiettato verso l'Europa, dall'altra proiettato verso il Pacifico, mentre tutti i presidenti del passato avevano un'attenzione maggiore legata ovviamente all'Unione Sovietica, alla Guerra Fredda, certo, al Medio Oriente, l'attenzione maggiore rispetto al... Obama si è molto distanziato dall'Europa. Io ricordo che i primissimi vertici Stati Uniti-Europa, il primissimo vertice, lui era appena presidente, non c'è andato. Non c'è andato, sì. Sono delle cose che in teoria uno si aspetterebbe da un candidato invece repubblicano, molto proud di essere americano. Ma il mondo si volge alla Cina, noi non contiamo più niente, ed è inutile raccontarla diversamente, nelle determinanti di crescita mondiale di lungo periodo, e così gli imperi asiatici tornano a contare come prima che gli Stati Uniti si affacciassero alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, comprimendo sul prodotto mondiale lo spazio che per secoli avevano avuto gli altri imperi asiatici. Si torna un turnaround, si torna esattamente come era prima, per certi versi, non nelle proporzioni prima che ci fossero gli Stati Uniti, ma insomma gli Stati Uniti perdono perdono peso, come perdono il totale dei paesi avanzati. Quindi non illudetevi, cari ascoltatori, per noi poi cambia poco o niente, questa è la verità. E come ogni giorno, anche oggi Jim Morrison vi ricorda che siamo ben lontani da un punto in cui l'Italia non rischia. Man mano che ci avviciniamo all'appuntamento elettorale, vedrete quanto il rischio, il coefficiente di rischio sovrano italiano verrà riapprezzato dai mercati, almeno questa è la mia previsione. In questa parte conclusiva tocchiamo un po' di note che riguardano come siete testimoni di lì, di questa tornata elettorale. Allora, professor Brusco, ma tra gli studenti nel campus e così via, questa tornata è sentita come quella di Barack alla prima elezione, sembrava una svolta la storia americana, oppure no, è molto più fredda secondo lei il coinvolgimento? Beh, sicuramente più freddo, però tenete anche conto che anche tutta questa storia del coinvolgimento dei giovani nel 2008 è un pochino gonfiata dagli europei. È un pochino gonfiata, sì. Alla fine della fiera, quando uno guarda ai tassi di partecipazione per classe di età, il 2008 non fu nulla di straordinario dal punto di vista della partecipazione giovanile. Come sempre, chi partecipa di più al voto sono le persone più anziane, sono le persone con il più alto grado di istruzione, e questo non è che sia cambiato molto nelle ultime elezioni. Nel 2008 c'era sicuramente molto più entusiasmo da parte dei democratici, perché c'era la sensazione diffusa che George W. Bush avesse provocato dei danni enormi al paese, che c'era uno scontento generale. In effetti, a quel tempo il tasso di gradimento di Bush viaggiava sul 30%. Sì, sì, era sotto i tacchi. Insomma, era la fine, di un ciclo. Però poi Christian, quando si arrivò col midterm, cambiò di nuovo tutto. Nel senso, e adesso rischia di cambiare anche il segno politico con l'affermazione dei Tea Parties, la parte più dentata, per così dire, dei repubblicani sulle temi fiscali. Adesso però si è molto attenuata anche questa volta. O sbaglio, Christian? Ma guarda, intanto l'avvento dei Tea Parties, la protesta nei confronti appunto dell'indebitamento eccessivo dello Stato e tutto quanto eccetera, era già cominciata, diciamo, ai tempi di Bush, perché è stato Bush quello che ha esteso a dismisura, diciamo, lo Stato sociale, perché era uno dei cardini della sua politica che cosiddetta di conservatorismo solidale e compassionevole. E quindi questa cosa era già cominciata prima, la crisi ovviamente lo ha accelerato maggiormente, e con l'arrivo del presidente democratico, che ha ulteriormente, come hai detto, ricordato poco fa tu, aumentato il debito, è intervenuto ancora di più per salvare prima il sistema finanziario e poi per aiutare alcune industrie strategiche come anche quella delle automobili e così via, questa cosa è esplosa, e nel 2010 c'è stato questo grande exploit che ha portato ad una sconfitta di Obama. Ha portato da una parte una sconfitta di Obama, dall'altra parte con la scelta di candidati diciamo non straordinariamente, diciamo, adeguati al ruolo. In qualche modo potremmo fare un esempio, diciamo, insomma, anche un po' del genere dei nostri grillini, cioè gente che protestava contro l'attuale sistema ma non, diciamo, altamente qualificata. Questa cosa ha portato ad una vittoria minore dei repubblicani, cioè se avessero avuto dei candidati più all'altezza, probabilmente il risultato per Obama sarebbe stato ulteriormente grande. Per Obama sarebbe stato ulteriormente pesante. Questa cosa ha fatto sì che un po' l'effetto dei Tea Parties si è attenuato. Sì. Poi vabbè, a netto delle grandi diciamo monumenti eretti dalla stampa europea, Occupy Wall Street, che secondo me è stato un fenomeno molto diverso e assai meno di impatto di quanto sui giornali europei e italiani non si sia capito. Senta, Brusco, lei per chi voterebbe dei due? Non so se voterei. Ah, ecco, quindi non ci si medesima, non la scalda questo tipo di considerazione. Beh, del resto, voglio dire, ci stiamo avvicinando a tasse di partecipazione in Italia la prossima volta, che sono forse rischiano di sconfiggere al ribasso quelli americani. Beh, no, su questo però mi faccia dire sì. Una cosa. L'elezione del 2010 fu un'elezione di midterm, cioè fu un'elezione, sì. Qua si rinnova la Camera dei Deputati ogni 2 anni. E sono anche elezioni in cui la partecipazione è regolarmente molto più bassa che le elezioni presidenziali, quindi anche quel movimento, anche la vittoria del Tea Party in quella elezione è stata un pochino gonfiata, sì, è vero che hanno vinto, però hanno vinto grazie ad un'elezione in cui la partecipazione era comunque più bassa. Sono sempre le elezioni di midterm quelle in cui avvengono i grandi cambiamenti, perché è più facile fare agio sull'entusiasmo di pochi in elezioni in cui la partecipazione è ridotta. Era abbastanza scontato che nelle elezioni del 2012 questo tipo di fenomeno sarebbe stato sicuramente molto ridotto, infatti è quello che sta accadendo. Tutta la spinta per la Repubblica ci fu nel 2010, in parte che è cambiato lo scenario politico-economico, ma con il miglioramento dell'economia americana, ma in parte anche semplicemente dato dal fatto che queste elezioni sono elezioni con un tasso di partecipazione più alta di quella quella del 2010, di quello sono sempre, perché tutte le elezioni presidenziali hanno più partecipazione di quelle di MIT. Costitutivamente, certo. Christian Rocca, mi dici che impressione secondo te farebbe in Italia se avessimo un candidato come Barack Obama che sfonda il tetto del miliardo di fondi raccolti? Beh, insomma, l'Italia in realtà è stata raccontata in queste settimane una storia diversa. È stato raccontato che la grande finanza stava aiutando i repubblicani e Romney e che il povero Barack Obama non aveva soldi. Invece la realtà è assolutamente diversa. Obama ha raccolto poco più oltre un miliardo di dollari di finanziamenti, più di quanti ne abbia raccolti Mitt Romney. Il problema è che ne ha già spesi parecchi di più rispetto a quelli di Romney, anche diciamo nello staff, nell'organizzazione, e quindi al momento ha negli ultimi giorni, l'ultima settimana ha 45 milioni di dollari in meno di Romney, e continua a mandare, compreso me, ai militanti eccetera, 12 mail al giorno dicendo ho bisogno di soldi. Ha bisogno di soldi, diciamo che come micro fondatore di un movimentino che vuole cambiare l'offerta politica dal basso, diciamo che siamo a distanze di 9 zeri sideralmente lontani. Comunque, vediamo se The Land of the Brave of the Free non ci delude anche questa volta. Vedremo naturalmente nella notte mitica del voto, che verrà seguita moltissimo anche dal nostro gruppo editoriale, con trasmissione anche su Radio 24. Io ringrazio il professor Sandro Brusco e ringrazio Christian Rocca, e a voi tutti do appuntamenti, cari topolini, a lunedì prossimo.